Pubblicato sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giammonino, una nuova poesia del poeta Francesco Buttini dal titolo Canto del guerriero. Sono una stella esplosa 1.000.000 di anni fa e se manca la luna scorgi il mio tardivo bagliore. Ed ora non conto nulla e nulla conta per me, meglio lasciar perdere. Catapultato in un mondo che mi disprezza perché è diverso, mi controlla perché scheggia impazzita. Mi accorgo che la ribellione è il primo passo verso la resa. Canto del guerriero.